Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo un titolo che ci riporta a un classico genere della letteratura, soprattutto la letteratura americana, i romanzi on the road, i romanzi di viaggio. Tra l'altro questo si svolge su un percorso mitico degli Stati Uniti, la famosa Route 66. La imboccano i due protagonisti del romanzo che vi propongo, In viaggio contromano, di Michael Zadurian, è pubblicato da Marcos & Marcos, 282 pagine, 16,50 euro. Ed è tradotto da Claudia Tarolo. La variante alla formula del viaggio è qui data dai protagonisti, che sono una coppia ottantenne malatissima, lui con un Alzheimer ormai pronunciato, lei con un tumore, che decidono di concedersi quest'ultima vacanza nel loro camper, scappando letteralmente dalle cure apprensive dei figli. Se la caveranno benissimo, magari diciamo abbastanza bene, fino a un finale a sorpresa che naturalmente non vi rivelo, e animeranno una storia molto tenera, vivace, ironica, che senza volerci fare lezioni o morali ci fa accostare molto alla malinconia degli ultimi anni, che possono riservare, come fanno i due protagonisti Ella e John, ultimi fuochi di entusiasmi e di passioni. Ma sentiamo l'autore, che in questi giorni è stato in Italia. Buongiorno a Michael Zadurian. Good morning. Nel suo libro emerge una grande contraddizione fra la vita normale che fanno i due protagonisti e l'apparente rivoluzione che compiono nella loro vita decidendo di fare semplicemente una vacanza. Come spiega questa contraddizione? La contraddizione alla quale lei si riferisce riguarda tutti gli aspetti della vita di queste due persone anziane, entrambe molto malate. Per esempio, Ella ha un cancro in stato avanzato. La contraddizione risiede nel fatto che, secondo il buon senso, in una situazione come la loro, non c'è spazio per una vacanza. Ma invece partire per una vacanza è proprio quello che Ella e John decidono di fare. In un certo senso è come se fuggissero dai propri figli ormai diventati grandi, da tutti i dottori e da tutte le persone che li circondano. Partono, cercano di scappare da tutti e da tutto, vogliono vivere il tempo che gli rimane facendo quello che desiderano e non ciò che gli altri gli dicono di fare. In effetti, nella trama del suo libro, i figli sembrano rimanere nell'ombra e questo vuol stare a simboleggiare la difficoltà che hanno i figli di oggi a trattare con gli anziani genitori? Sì, penso che questo è quello che sta accadendo oggi negli Stati Uniti. Certo, è un fenomeno che coinvolge ogni parte del mondo, ma in particolare in America è ancora più evidente. Queste persone appartengono alla cosiddetta Baby Boom Generation. Sono gli anziani che hanno fatto la guerra e hanno superato la grande crisi. Loro, che erano persone autonome, si scoprono sempre di più dipendenti dai propri figli, ormai adulti che a loro volta sono divisi fra il compito di crescere ed educare i propri bambini e quello di prendersi cura dei genitori anziani. Assistiamo ad una sorta di ribaltamento dei ruoli. Penso che questa sia la ragione che fa apprezzare il libro sia a lettori giovani che a quelli anziani. Dunque, per i vecchi è difficile essere liberi? Sì, penso che lo sia. La libertà è il tema principale di questo libro. John ed Ella finiscono i propri giorni nel modo in cui lo desiderano. Penso che le storie americane del genere on the road, raccontate nei film e nei libri, sono tutte molto simili. Lo spirito di libertà, il desiderio di indipendenza, la ricerca del proprio posto nel mondo. Ma i protagonisti sono sempre ragazzi giovani, ventenni alla ricerca della propria strada. Qui invece abbiamo due ottantenni. Penso che in entrambi i casi il tema sia lo stesso, la libertà. E in effetti in questo libro noi troviamo alcuni altri miti della cultura americana, la famosa strada 66, Disneyland. Insomma, questo libro è anche un libro sull'America di oggi? I think it is. It's Credo di sì. Per molti versi è un libro sull'America di ieri. John ed Ella hanno molte delle stesse caratteristiche della Route 66 Generation. L'età della loro giovinezza è quella che va dalla metà fino alla fine del XX secolo. In molte parti riguarda un'America che ormai non c'è più, ma per quanto riguarda la storia dei personaggi, penso che rappresentino quello che è successo alla Baby Boom Generation. Il suo libro ha avuto un grande successo negli Stati Uniti. Chi l'ha letto di più, i giovani o i vecchi? Penso che sia metà e metà. Ho scoperto che lo hanno comprato molte persone anziane. Il mio primo libro, Second Hand, ha attirato un pubblico giovane. Questo invece sembra interessare quello più anziano. È interessante scoprire di avere fra i propri lettori persone di 20 o 30 anni e poi 60 e 70 anni. È un mix affascinante. Ok, thank you very much, Mr. Zadunian. All right, thank you. I hope you got what you needed. Un altro cliché tradizionale è quello dello scrittore che pianta baracca e burattini per rifugiarsi in un esilio lontano, magari non troppo sgradevole, per abbandonarsi ai ritmi e alle magie del luogo, meglio ancora se orientale. È quello che ha di nuovo fatto un famoso giornalista americano, inglese di nascita per la verità, Lawrence Osborne, che ha ricavato dalla sua esperienza il libro Bangkok. È pubblicato da Adelphi, 260 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Matteo Codignola. Non solo chi ama quella città, chi c'è stato o chi ci vuole andare, sarà divertito da questo libro, nel quale non prevale l'aspetto romantico di chi vuole raccontare una sorta di fuga da se stesso, ma dove emerge invece la capacità di rendere attraverso le proprie avventure e riflessioni l'atmosfera di un luogo. E Osborne si rivela capace di renderci questa atmosfera attraverso le esperienze dei sensi, dalla cucina al sesso naturalmente, le chiacchiere con gli amici altrettanto sfaccendati al bar, i riferimenti alla cultura buddista che sono molto frequenti e che aiutano Osborne a capire molti aspetti altrimenti difficili da cogliere della città. Ma sentiamo queste righe che ci descrivono il grande cambiamento che Bangkok sta subendo. Da Bangkok sono passato molte altre volte, quando mi occupavo di psichiatria e più in generale di scienza per alcune riviste americane. Ogni volta che ci tornavo, comunque, trovavo una città cambiata. L'apertura dello Skytrain o l'altezza crescente dei cartelloni pubblicitari, dove le pubblicità di iPod, scarpe da ginnastica e costumi da bagno italiani spuntavano come frutti di stagione, dimostravano il desiderio forse nato da parte della città di essere più contemporanea di qualsiasi altra. Qui il capitalismo era stato impostato su basi nuove, ed era nuovo. Era un capitalismo non solo asiatico, ma indocinese, indubuddista, sino-malese. Le stazioni sopraelevate dello Skytrain, che punteggiavano il Sukhum Vit, con i negozietti di succhi di frutta biologici, gli ottici, le agenzie di viaggio, erano spazi urbani nuovi, più puliti e più vasti di quelli sottostanti. Si aveva l'impressione che dopo secoli di caos la città volesse solo ordine e geometria, e li stesse ottenendo. Una meta assai più domestica è quella che ci propone il film di Giuseppe Tornatore, che da pochi giorni è sugli schermi, Baharia. In occasione dell'uscita del film vi segnalo due libri. Il primo si intitola appunto Baharia, con le immagini più belle di questo film. È un'intervista di Gianluca D'Agostino al regista. Le immagini sono di Marta Spedaletti e Stefano Schirato. Il libro è pubblicato da Electa con Medusa, 160 pagine, 60 euro. Ed è compreso anche un CD con alcuni brani della colonna musicale di Ennio Morricone. Del film, ma soprattutto del suo rapporto con Bagheria, parla lo stesso Giuseppe Tornatore con Pietro Calabrese in Baharia, il film della mia vita, pubblicato da Rizzoli, 192 pagine, 17 euro. Come vi dicevo appunto, un libro intervista nel quale il regista racconta il suo accostarsi al cinema, la sua storia e anche in particolare quella del successo maggiore, Nuovo Cinema Paradiso, e poi la storia di questo film, Baharia, che come sapete è ambientato nella sua Sicilia ma che è girato in Tunisia. Un libro che invece è stato trasformato in film, che anch'esso nelle sale in queste settimane, è The Informant di Kurt Eichenwald, che è un giornalista del New York Times abituato al tipico stile investigativo americano. Il libro è pubblicato da Rizzoli, 682 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Andrea Zucchetti, Massimo Gardella e Emanuela Carozzi. La storia è quella autentica, ricostruita dall'autore con un minuzioso lavoro di indagine e di ascolto di tutti i protagonisti, che riguarda un caso clamoroso di corruzione e di manipolazione del mercato, di cui diventa protagonista uno strano e contraddittorio personaggio, un dirigente di una grossa azienda nel campo alimentare, un po' mitomane, un po' imbroglione, sempre bugiardo, che, come sapete, è interpretato sullo schermo da Matt Damon. Il confettino. Rimaniamo in zone esotiche con Nicky e gli zaffiri di Huanan di Maria Grazia Bertarini. È pubblicato da Turing Junior, 128 pagine, 7 euro, ed è illustrato da Sandra Bersanetti. Ritroviamo qua Nicky, appunto, una giovanissima investigatrice al seguito della nonna archeologa, coinvolta qua in un'avventura nel cuore della Cina. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di musica. È iniziato infatti giovedì scorso alla Scala a Milano e durerà fino all'8 novembre il 18° Festival di Milano Musica, il tradizionale e importante appuntamento dedicato alla musica contemporanea, che quest'anno vede come protagonista un artista giapponese, forse il più famoso musicista contemporaneo giapponese, Toru Takemitsu. In questa occasione vi segnalo il libro di Alex Ross, che è un critico musicale tra i più autorevoli degli Stati Uniti. Il resto è rumore, ascoltando il XX secolo. È pubblicato da Bompiani, 880 pagine, 29,50 euro, ed è tradotto da Andrea Silvestri. La musica contemporanea, la musica colta, non è forse tra le forme artistiche più popolari, e questo libro si rivolge agli appassionati ma anche a chi non frequenta questo genere artistico e musicale, per collocarne lo sviluppo nell'evoluzione artistica, politica e sociale del Novecento. L'autore, insomma, vuole spiegare il XX secolo attraverso la musica, e il suo libro diventa così una guida per accostarci alla comprensione di un secolo e della sua cultura attraverso un'esperienza alla quale nessuno di noi in realtà è estraneo, come ci spiega l'autore in queste righe che vi propongo. La composizione classica del XX secolo, il tema di questo libro, alle orecchie di molti sembra solo rumore. Si tratta di un'arte non addomesticata, di un movimento sotterraneo non assimilato. Mentre gli astratti schizzi di colore di Jackson Pollock si vendono per 100 milioni di dollari e oltre, e le opere sperimentali di Matthew Barney e David Lynch vengono analizzate nelle case dello studente di tutto il paese, il loro equivalente musicale riempie ancora di sconforto il pubblico dei concerti e ha un impatto quasi impercettibile sul mondo esterno. La musica classica è vittima dello stereotipo secondo cui sarebbe musica di morti, consistente in un repertorio che comincia con Bach e termina con Mahler e Puccini. A volte per la gente è una sorpresa apprendere che i compositori stanno ancora scrivendo musica. Tuttavia, queste sonorità non ci sono certo estranee. Gli accordi atonali compaiono frequentemente nel jazz. I suoni dell'avanguardia affiorano nelle colonne sonore dei film hollywoodiani. Dai Velvet Underground in poi, il minimalismo ha lasciato il segno nel rock, nel pop e nella musica dance. Nel libro di Ross troviamo opere, biografie, ma anche riferimenti a politici, a dittatori, a gusti musicali, in un libro veramente affascinante, al quale forse avrebbe fatto bene un indice dei nomi e un indice meno telegrafico di quello che invece troviamo. Il Festival di Milano Musica, al quale ho accennato, è una creatura, anzi è la creatura di Luciana Pestalozza, una protagonista della vita musicale italiana, alla quale è dedicato il volume pubblicato da Archinto, Milano, laboratorio musicale del Novecento, 282 pagine, 30 euro. In occasione di un compleanno rotondo di Luciana Pestalozza, un libro che è un documento molto importante sulla musica contemporanea, sull'industria musicale italiana e sull'ambiente milanese, che certamente uno tra i più vivi e stimolanti in Europa. Troviamo nel libro scritti dei maggiori musicisti contemporanei, a partire dal fratello di Luciana Pestalozzi, cioè Claudio Abbado, a Pierre Boulez, Luigi Nono e tantissimi altri, oltre che una serie di studi che fanno il punto in particolare sul rapporto tra Milano e la musica, un rapporto che ha radici antiche e che continua, come afferma la stessa Pestalozzi nel saggio introduttivo. Che il legame fra Milano e la musica sia antico lo dimostra naturalmente l'esperienza di Giuseppe Verdi. Lo ripropongo perché torna un classico che è il libro di Giampiero Tintori, che è stato uno dei maggiori studiosi del grande musicista, del quale viene pubblicato l'invito all'ascolto di Giuseppe Verdi, anzi viene ripubblicato perché quest'opera è un classico. Chi ancora non l'ha letta ed è appassionato di Verdi non potrà mancarla. Il libro è pubblicato da Mursia, 296 pagine, 14 euro. Si tratta di uno strumento agile, documentato e godibile sull'opera e la vita di Verdi e del grande musicista. Ci vengono presentati tutti i titoli e l'evoluzione artistica, così da fare di questo libro uno strumento utile per accostarci anche ai titoli della sterminata produzione verdiana, di cui potremo conoscere la trama, ma soprattutto l'analisi musicale. Restiamo a quel periodo e a Milano con uno dei movimenti artistici che ha più animato la città nella seconda metà dell'Ottocento, la Scapigliatura. Proprio a questo movimento Milano dedica una grande mostra che è aperta a Palazzo Reale e resterà fino al 22 novembre, dedicato appunto alla Scapigliatura. Facciamoci consigliare da Marco Carminati un'opera particolarmente interessante di questa mostra. Ciao Marco. Ciao Salvatore. Sì, in effetti la mostra sulla Scapigliatura offre molti spunti. In particolare c'è la possibilità di conoscere forse il monumento più vistoso che c'è a Milano dedicato all'età scapigliata, che è un monumento tutt'altro che scapigliato, diciamo, a prima vista. Si tratta di un obelisco. È l'obelisco che si trova sulla piazza delle Cinque Giornate, nella antica posizione della Porta Tosa. In mostra c'è un modello in bronzo. Naturalmente i milanesi possono ancora andare a vedere l'originale, e l'originale è un monumento che ha una storia davvero singolare e molto scapigliata nella sua trama. L'autore di questo monumento fu lo scultore Giuseppe Grandi, che è una sorta di alter ego rispetto al pittore più famoso della Scapigliatura, cioè Tranquillo Cremona, uno scultore che prende talmente sul serio questa commissione così importante per la Milano dell'unità d'Italia da perderci la salute e ahimè anche la vita. Perché prese così sul serio il tema? Ma perché vuole realizzare un monumento vivente, tipicamente scapigliato nella sua sensibilità, cioè deve essere una scultura che è in movimento, qualcosa non accademico, non fermo. La scultura, ve la descrivo, è un obelisco alla cui base ci sono alcuni animali, un'aquila, un leone e cinque donne. Ecco, per avere un effetto di grande movimento e di grande intensità, per esempio il leone lo comperò sul serio, andò ad Amburgo, comperò la belva, la portò a Milano assieme a un domatore, naturalmente, perché bisognava trattare questo animale un po' preoccupante, e tra l'altro racconta Carlo Dossi, che alimentò questa leggenda del monumento attraverso delle descrizioni molto divertenti, che lo scultore stuzzicava questo animale attraverso dei dispetti per renderlo molto feroce, per poterlo cogliere nei momenti di maggior rabbia. Che cosa significa nella statua questo leone? Significa naturalmente il risveglio della popolazione milanese dopo tanti anni di sudditanza. E anche l'aquila, che in questo monumento allude all'aquila austriaca, è un animale che il nostro scultore allevò personalmente per poter avere appunto sempre questo effetto di movimento e di verità. Racconta sempre Carlo Dossi che lo studio dell'artista vicino alla Porta Tosa, dove stava per sorgere il monumento, naturalmente non era frequentato da nessuno per la presenza di queste belve, ma incuriosiva moltissimo soprattutto per l'andirivieni continuo delle modelle. Pare che ne avesse una la mattina, una a mezzogiorno, un'altra nel primo pomeriggio, una verso sera e una notte fonda, perché anche in questo caso, per ritrarre le cinque donne che rappresentano proprio le cinque giornate, sono l'allegoria delle cinque giornate, non si limitò a una sola modella facendole prendere atteggiamenti differenti, ma volle cinque persone differenti da cogliere in momenti appunto anche in sensibilità e in aspetto molto differente. Che cosa raffigurano queste cinque donne? celebrano proprio i 5 giorni dell'insurrezione e naturalmente sono con atteggiamento diverso. Se giriamo intorno al monumento si vede molto bene, la prima donna è una donna che si sta risvegliando dal sonno, la seconda piange perché naturalmente le prime giornate furono sfavorevoli ai milanesi, la terza risorge ancora più imponente, la quarta e la quinta avanzano trionfante avvolte nel tricolore. Ecco, questa è la storia di uno dei monumenti scapigliati più importanti e anche più vistosi della nostra città. È ancora lì e tutti possono girarci intorno e divertirsi a guardare questi aspetti. Marco Carminati ci ha introdotto al titolo che adesso vi volevo segnalare. È un titolo proprio di Carlo Dossi, che fu uno degli scrittori più interessanti di quel periodo, anche se poi abbandonò sostanzialmente la carriera letteraria per dedicarsi a una carriera molto più impegnativa da un certo punto di vista, quella di ambasciatore. Entrò infatti in carriera diplomatica, diventò il braccio destro di Francesco Crispi, fu ambasciatore ad Atene, ma rimase legato appunto alla sua città e a questa esperienza letteraria dei primi anni che ne fa, ripeto, uno degli scrittori più interessanti della scapigliatura. Esce di Carlo Dossi Gocce d'inchiostro, pubblicato da Salerno, 154 pagine, 12 euro. Le gocce, come dovremmo dire noi, senza i, in realtà sono 14, occupano una settantina di pagine del libro che ha una lunga prefazione e poi un appendice interessante. Sono dei bozzetti, queste gocce, delle riflessioni brevissime, spesso fulminanti, pubblicate nel 1880, lui era nato nel 1849, nel 1880 già Dossi era a Roma dove aveva vinto il concorso per entrare in carriera diplomatica. E queste sono pagine spesso scherzose, sarcastiche, come le ultime, intitolate La consolazione della filosofia, dove verifichiamo la delusione di un marito quasi vedovo che assume il carattere di uno stoico che si vuole rassegnare e vuole governare il suo dolore richiamandosi alla filosofia, ma verrà sonoramente deluso dalla guarigione in estremis e del tutto inaspettata proprio della moglie. Prima di salutarci segnalo che inizia tra poco un appuntamento diventato tradizionale. Ottobre piovono libri, è organizzato ormai dal 2006 dal Centro per il Libro e la Lettura con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sono tanti appuntamenti in giro per l'Italia che prevedono aperture straordinarie delle biblioteche, caccia al tesoro letterario, letture drammatizzate, mostre, book crossing, reading, filastrocche animate, laboratori creativi, workshop di scrittura, incontri con autori, tutti appuntamenti che potete trovare nel sito www.cepel.it, ma soprattutto attraverso Radio 24, perché questa radio seguirà tutti questi eventi con un appuntamento dedicato dopo il GR delle 10 e poi un altro prima del GR delle 23, quindi dal 1 ottobre tutti i giorni un appuntamento con questa iniziativa mensile. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.